La domanda può avere due risposte, sì e no. No, nel senso che non bisogna dare credito a determinate dinamiche per il semplice fatto che questo non fa altro che peggiorare il problema, soprattutto in persone particolarmente sensibili, ma sensibili dal punto di vista psicologico. Sì, invece, è nel dare informazione sul fatto che certe cose sono solo espressione dell'irrazionale, non c'è nulla di reale. Ora, il problema sarà: che cosa insegneranno in questo corso? Certo, allora la domanda dopo, diciamo, è cosa dovrebbero insegnare in qualche modo? Beh, il fatto è che se il corso è fatto in modo serio, cioè ciò che si dovrebbe insegnare è l'aspetto magari antropologico, l'aspetto psicopatologico del fenomeno e come affrontarlo, soprattutto sotto l'aspetto di tipo medico e curativo. Se una persona, una persona o presunta tale dice di essere posseduta dal demonio, questa persona deve essere posta all'attenzione dello psicologo, dello psichiatra, dello psicoterapeuta, non certo all'attenzione di organi spirituali o della Chiesa. Esatto, però in questo caso il corso, diciamo, sarà organizzato proprio dalla, diciamo, non dalla Chiesa, ma dall'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. Insomma, comunque l'organizzazione alla base non fa pensare che sarà in qualche modo un corso, non dico di debunking, ma di decostruzione di quest'idea. E appunto è questo che ci rende perplessi e quindi spaventa nello stesso tempo, perché un corso del genere rischia di avallare certe idee e quindi rischia di confermare la presenza di entità spirituali, entità demoniache, e questo può determinare davvero un grosso problema. Dal mio punto di vista la considero come una sorta di regressione culturale. In generale, diciamo, la notizia ha fatto scalpore anche perché è apparsa a scarsissima distanza di tempo da quando il vice premier Matteo Salvini aveva ricondiviso un articolo in cui si accusava Virginia Raffaeli di satanismo. Ora, le due cose chiaramente non sono direttamente collegate, però fa un po' impressione che questi temi siano tornati al centro, diciamo, del dibattito pubblico. Sì, assolutamente sì, condivido la sua espressione, questa cosa fa davvero impressione, perché proprio nel 2019 queste argomentazioni dovrebbero essere soltanto argomentazioni di folklore, oppure studiate da un punto di vista storico, antropologico. In queste occasioni però si dà una reale dimensione al fenomeno, si dà dignità al fenomeno facendo pensare che si tratti di qualcosa di reale, quando così non è. Quindi siamo praticamente sommersi dalla disinformazione. Sì, una disinformazione che effettivamente, non so se lei è d'accordo con me su questa cosa, però sembra un po' che negli ultimi anni questa tendenza proprio a, appunto, dare visibilità e ingigantire questioni che non lo erano, ci sia un po' sfuggita di mano, almeno da alcune parti politiche. Sì, sì, sembrerebbe proprio di sì. Da un lato, da alcune parti politiche che danno dignità a determinati fenomeni, dall'altro però c'è sempre questa tendenza all'irrazionale. Guardi, qualche anno fa addirittura è uscita un'inchiesta su Panorama in cui la Chiesa confermava la presenza di 500.000 presunti indemoniati l'anno. Già, questo la dice lunga sulla percezione che ha la nostra cultura sulla questione dell'esorcismo e delle possessioni demoniache. Il problema è che ancora oggi, grazie ad una certa influenza, ovviamente anche da parte della Chiesa, si dà dignità a determinati fenomeni. Io comprendo che la Chiesa faccia il proprio lavoro, io comprendo che la Chiesa ovviamente abbia delle determinate credenze radicate da un punto di vista storico, da un punto di vista culturale, però tuttavia nello stesso tempo il fatto di confermare la veridicità di certi fenomeni è, e io lo dico come psicologo clinico, dannoso sotto l'aspetto della salute mentale. Una domanda invece dal punto di vista, diciamo, dell'informazione, cioè come si può combattere, diciamo, la diffusione di questo tipo di notizie? Guardi, noi facciamo tutto il possibile cercando di fare quanta più informazione che si possa fare, attraverso quindi una buona divulgazione scientifica, attraverso quindi una buona informazione, perché purtroppo non possiamo, come dire, costringere le persone a non esprimere la loro credenza. Quindi da parte nostra quello che possiamo fare è quello di fare una buona informazione per creare una sorta di vaccino culturale, affinché nel momento in cui certe dichiarazioni vengono fatte sui giornali o in televisione, la gente ha già gli anticorpi culturali necessari per poter comprendere che si tratta di sciocchezze. Un meccanismo che però forse in qualche modo è diventato più difficile, diciamo, perché c'è questa tendenza oggi, di più mi verrebbe da dire, a mettere in dubbio il fatto che qualcosa possa essere intrinsecamente vero. Quindi nel momento in cui tutto, diciamo, può essere messo in discussione, poi è anche più difficile forse fare, appunto, divulgazione scientifica su questi temi. Sì, purtroppo è così, ma questo è lo stesso fenomeno che dà origine al cosiddetto complottismo. Nel momento in cui cui ci sono informazioni che sono contrastanti tra di loro, da un lato c'è un organo di informazione che dice che le cose sono in un determinato modo, dall'altro questa cosa viene completamente smentita, allora è ovvio che chi sta dall'altra parte dice qui c'è qualcuno che mente, e quindi questo fa scattare dei meccanismi paranoici da parte dell'opinione, una sorta di paranoia collettiva. Purtroppo è un complesso sistema sociale difficilmente controllabile.